C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte, anche 3 volte. Così, ogni sera, dovunque si trovasse alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. A sbagliare le storie. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso. Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: «Senti, Cappuccetto Verde». Ma no, Rosso. Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia. Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: «Quanto fa 6 per 8? Niente affatto. Il lupo le chiese: «Dove vai?». Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose: «Era Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso!». Sì, e rispose: «Vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro». Neanche per sogno. Vado dalla nonna che è malata, ma non sa più la strada. Ah, giusto. E il cavallo disse: «Quale cavallo? Era un lupo». Sicuro? E disse così: «Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai 3 scalini e un soldo per terra, lascia stare i 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare». Nonno, nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte. Però la gomma da masticare me la compri lo stesso. Va bene, eccoti il soldo. E il nonno tornò a leggere il suo giornale.